Esatto, siamo sempre su Radio Città Fujiko e siamo al telefono con Caparezza. Ciao Michele, grazie mille di essere qua con noi. Ciao, grazie. È un onore, posso dirlo, riuscire ad avere questa possibilità, insomma, di questa intervista. Ti ringrazio, grazie. L'onore è mio, tra l'altro conosco benissimo la radio e tutta la realtà che rappresenta. Allora, noi ti abbiamo chiamato principalmente perché il 20 luglio sarai sul palco del Balena Festival, che è a Genova, quindi non proprio qui, anche se poi venerdì sarai a Ferrara, che è un po' più vicino. Hai detto che non vedi l'ora di farci vedere cosa avete preparato per questo spettacolo. Puoi darci qualche indizio, insomma, di cosa porterà in questo Exuvia Tour? Allora, diciamo che la parola spettacolo racchiude tutti gli indizi, perché di questo si tratta, cioè di qualcosa che oltre ad essere ascoltato è anche possibile vedere, nel senso che sul palco, al di là delle canzoni e della loro esecuzione, avvengono tante cose. Ci sono ormai questi oggettoni in carta pesta che sono diventati un po' qualcosa di inseparabile da me, che hanno contribuito a creare qualcosa di quasi irripetibile, nel senso che credo di aver trovato una formula tutta mia di spettacolo. Ogni canzone ha una scenografia diversa, c'è un filo conduttore che è quello del rito di passaggio, ambientato nella foresta, come accade nel mio ultimo disco Exuvia, che tra l'altro fa la parte del leone in questo spettacolo, e quindi insomma credo che sia godibile anche per chi magari non conosce bene il mio percorso, magari non ha ascoltato le mie ultime cose, qualcosa che prescinde, ecco, da quello che faccio. Proprio ho sempre distinto il lavoro di studio dal lavoro live, e questo è un lavoro live dove c'è molto molto impegno. Non vediamo l'ora di vederlo. Tra l'altro, l'ultimo album, appunto Exuvia, ci sono molti riferimenti al tuo percorso musicale fin dagli inizi e un po' un racconto di rinascite. Ecco, come mai la scelta di guardarsi indietro a questo punto della tua carriera? Ma perché sono del 1973, questo fa di me un 48enne che va verso gli anta. Come sempre accade, diciamo, in questo, diciamo, possibile giro di boa, adesso magari un po' ottimista come definizione, ci sta che uno si guardi un po' indietro, che faccia pace con i suoi fantasmi, e questa è una cosa che è avvenuta proprio durante la stesura di questo album, che tra l'altro io ritengo essere piuttosto differente da tutti gli altri, per tante cose, insomma, anche per il mio modo di cantare, che ormai si è scrollato di dosso quella tipica voce nasale che facevo prima in gioventù. Quindi diciamo che principalmente è questo, cioè voglio appartenere alla mia età, nella mia età ci stanno anche questi spunti di riflessione. Dal punto di vista musicale invece rimane sempre la super band che hai portato nei live, o c'è qualche cambiamento anche da questo punto di vista? Per quanto riguarda la band, siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi. L'unico cambiamento in questo caso è che ci sono quattro performers ad aiutarci con le loro movenze, la loro capacità, oltre che canore, attoriale, come se fosse un propulsore in più rispetto a quella che è la comunicazione che voglio portare sul palco. Quindi questa è la vera novità, diciamo, dal punto di vista organico di quanti siamo sul palco. Tutto il resto è, per chi ha già visto i miei concerti, esattamente un concerto alla Caparezza, ma all'ennesima potenza. Fantastico. Intanto ricordiamo che mercoledì 20 sarai a Genova, il 22 a Ferrara, poi in realtà hai un tour che prosegue fino a 13 agosto per il momento. No, 13 agosto e finisce. E finisce questa esperienza con l'Exuvia Tour, che è un tour che mi sta dando veramente grandi gratificazioni dal punto di vista della presenza del pubblico, e c'è molto affetto anche che io respiro, di cui in fondo mi nutro, ma questa esperienza si concluderà tassativamente il 13 di agosto, dopodiché con la data di Maiano, dopodiché ai posteri, insomma, vedremo cosa accadrà. Ok, quindi non ti faccio domande su cosa hai in mente nel prossimo futuro. Invece volevo chiederti, ho trovato in una vecchia intervista in cui parlavi del conformismo, dell'essere anticonformisti. Qui passiamo un po' a una domanda un po' più filosofica, visto che è un concetto che è un po' già in fuori dal tunnel come canzone, un pochino c'era. Cosa intendi e come si fa eventualmente ad essere anticonformisti in toto? Ma innanzitutto l'anticonformismo non è necessariamente una virtù. ci può essere del buono anche nel conformismo, però detto questo, questa è una frase che ho sentito dire da Manuel Agnelli in qualche programma e mi ha colpito molto, perché anche nell'anticonformismo esistono codici, regole, etiche che insomma diventano conformi alla fine. Quindi secondo me basta essere se stessi, lontano da ogni tipo di definizione, questo basta. A questo punto ti chiederei, per salutarci e per dare appuntamento ai tuoi prossimi eventi, se hai un messaggio, un saluto magari per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, per invitarli in qualche modo anche a venirti a sentire. Allora, per gli indecisi, date una chance a questo spettacolo, un po' perché insomma non ritornerà sui palchi, un po' perché è diventato una sorta di rito collettivo nel quale farò di tutto per rapirvi alla vita reale per un paio d'ore, 2 ore, 2 ore e un quarto, a volte 2 ore e mezza, di modo da trasportarvi o teletrasportarvi nel mio mondo. Fantastico, a questo punto grazie mille Caparezza, Michele insomma, o tutte e due, per la disponibilità, è stato un enorme piacere e a presto. Grazie, grazie a voi, a presto.